headlights are on. Sono le ore 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Inizia prova tecniche di trasmissione sino alle 22.30 circa, allorché poi ci sarà 25 o'clock. Sul sito della radio, ricordo, si può trovare anche la nostra nuova campagna di crowdfunding, il radio abbonamento. Quindi il banner specifico che chiarisce meglio la questione e le modalità di adesione. Una campagna che durerà circa 3 mesi. Cominciamo una brevissima serie di saluti. Venusi a Zozzetta Stramonio, di Cupio Dissolvi, Maglia in Umbria. Un saluto a Angelina Waldes, Lucia Cagliazza in arte Lupse, Anna qui a Roma. A Cortina d'Ampezzo abbiamo Tabula Rasa, Ernesti Panico Brusati, Giovanni Lisi di Cordis Cincti Serpente, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Mariano, anche lui qui a Roma, Francesco Monaci in arte Smilzo, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, che vado a ringraziare ancora una volta per la sua geniale idea di realizzare questa compilation dedicata al sottoscritto. Ne abbiamo già parlato, ma ne parleremo a lungo anche questa sera. Un saluto ad Asia Liguori, a Flavio Derbecante, Arianna Digni Lombardo di Noise Cluster. A Viterbo c'è Antonio Tognetti, Sara Boi invece ci sta ascoltando in quel di Berlino. Abbiamo anche Cecilia Miradoli del progetto Pindar, è uscito da pochissimo il secondo album che presto ci ascolteremo in sede di Disorder. L'abbiamo nominata qualche istante fa e quindi andiamo proprio ad iniziare con Lupsi, la nostra Lucia Cagliazza, che proprio recentemente ci ha deliziato con il suo ultimo lavoro dal nome Poetry Kingdom. Le consuete rarefatte atmosfere molto liquide e a suo modo, a loro modo, psichedeliche, tirate fuori da una chitarra trattata, ma non solo. C'è la supervisione del presente, sempre presente, Raffaele Pezzella, e quindi non rimane che cominciare a gustarci questo lavoro. L'album si apre proprio con la canzone omonima, Poetry Kingdom, e poi ci sarà Next Journey. Thank you. e abbiamo aperto questa puntata del 27 marzo 2024 con l'ultima fatica di Loopsy, Poetry Kingdom, il regno della poesia. Una dedica alla fine, To My Endless Poetry, la mia poesia senza fine. Poetico, ma soprattutto onirico, è il tessuto musicale che arricchisce questa opera uscita l'8 marzo di quest'anno. Il contenuto onirico è una caratteristica peculiare dell'arte di Loopsy. È lei che tratta la chitarra e si ingegna in tutte le invenzioni che possiamo trovare nei vari album, sono ormai molti, della sua carriera. Ho scoperto questa grande artista grazie al Raffaele Pezzella, che ha risorse e non ha veramente rivali per certi aspetti, e la conobbi tanti anni fa dentro una compilation, e da allora ho scoperto questa artista che puntualmente rende ricca ogni selezione di prove tecniche di trasmissione. Anche lei ha fatto parte di questa compilation dedicata al sottoscritto, la cosiddetta leggenda radiofonica, Radio Legend, dove una trentina di artisti si sono prestati con dei brani molto interessanti per ricordare, appunto, diciamo, la mia incessante opera che è iniziata dal 1992. E io li ringrazio ancora una volta, e molti di loro sono all'ascolto adesso. Vedi, Venusia, mi scappa da ridere perché definirmi una leggenda è un po'... non è una cosa che mi viene troppo spontanea, devo dire, ma d'altronde sembrerebbe che io lo sia, e quindi ne prendiamo atto. Vedo dei commenti alquanto positivi rispetto a Loopsy, ma non mi sorprende. Ovviamente ci ascolteremo altri passaggi la prossima settimana. Andiamo avanti e andiamo a conoscere un artista che credo che per la prima volta compare almeno a livello solistico qui nelle mie selezioni, e trattasi di Antonio Tognetti, musicista proveniente da Viterbo, che ha inciso un interessante lavoro dal nome No Longer Human con la Dissipatio, una label che noi teniamo costantemente in occhio. Antonio Tognetti ci farà godere i momenti di autentica estasi elettroacustica. Anche qui ci saranno delle atmosfere abbastanza sognanti, molto introverse. Non rimane che andarcelo a sentire, lo cominciamo a conoscere, questo No Longer Human. La prima traccia si chiama First Notebook. vero esempio di ipnosi mantrica. Lavoro interessantissimo che esce per la Dissipatio a nome di Antonio Tognetti, No Longer Human. E la traccia con cui abbiamo iniziato a conoscere questo lavoro, un lavoro che ci ascolteremo per intero, sono quattro brani lunghi ma ne vale veramente la pena, si chiamava First Notebook, con lo stesso Tognetti e la chitarra battente preparata, il duduk che credo sia uno strumento etnico, Antonio all'ascolto e magari ce lo può anche chiarire, e poi sono anche la tavola armonica e il synth. Non so se duduk è collegato alla tavola armonica oppure sono due strumenti diversi. Abbiamo la splendida voce di Claudio Milano, veramente una voce molto interessante, e il pianoforte di Massimo Amato. E la voce di Claudio Milano a qualcuno e anche al sottoscritto ricordato Yuri Kamisaska, pietra miliare degli anni 70 della sperimentazione italica. E anche Claudio Rocchi come approccio quantomeno quasi esoterico. Questo lavoro è dedicato alla vita e al lavoro di Osamu Dazai, presumo scrittore, e la sua novella per l'appunto No Longer Human. Saluto Like Wake, la storia dell'ambient proprio qui di Roma, Sara Capo Fontana e Dario Rigo di Zaide, Giuseppe Verticchio, il medico della peste Marco Mascia di Progetto Sonoro, che credo nel frattempo abbia avuto il tempo anche di stampare nuovo materiale, magari mi rende edotto anche privatamente. Noi andiamo avanti e spostiamo un po' il tiro e andiamo... torniamo al nord, torniamo dalle parti di Udine e andiamo da Ignoto Militi. Come già spiegato nelle scorse settimane, ciò che tratta Ignoto Militi è la cronaca della guerra, la sofferenza, il sangue, la distruzione, la guerra di trincea, e quindi lo studio di Ignoto Militi è incentrato soprattutto sulla Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra, ma con un messaggio anche antimilitarista. Fino ad ora ci siamo ascoltati soprattutto delle cover, quindi è ora di andarci ad ascoltare del materiale proprio originale di Ignoto Militi. E ne cominciamo con Presente, un album realizzato nel dicembre del 2020. Ci ascolteremo 24 maggio, Irredentismo e Oltre la vita. Cosa stiamo facendo, sergente? Aspettiamo. Allineatevi! Sa, sergente. Cosa? C'è una cosa che mi preoccupa. E se... se capita a me... ci penso, è inutile negarlo. Io ho paura. Tu ce la farai. Tranquillo, figliolo. Posso dirti con certezza che so riconoscere un vero uomo. E tu... Allora abbiamo passato molti minuti insieme a Ignoto Miniti, il marzial percussivo così epico e neosinfonico delle prime due tracce, il 24 maggio Irredentismo e poi la sorpresa di Oltre la vita, che invece si è lanciato in un assalto metal noise. Ma è stato, diciamo, un'eccezione per quanto riguarda questo artista udinese, perché per il resto si esprime tra il neofolk, come sta andando sotto la mia voce, e le tracce che ci siamo ascoltati all'inizio. Questo era presente dal 1 dicembre 2020. Saluto Danilo Banano. E lasciamo l'amarezza di Ignoto Miniti e torniamo dalle parti di Raffaele Pezzella, andando un po' a sfruttare ancora una volta The Body of Horror, dedicata all'arte di David Cronenberg. E allora questa sera è il turno di Dead Zone Visions, le visioni della zona morta, e Mortar Devotion con Cortical Systematics. qua invece, dopo lo svedese Jarl, gli italiani, anche se trapiantata ad Helsinki, Mortar Devotions. Thank you. Mortal Devotions, dunque, con Manuele Frau, Nicolas Pucciarelli, loro italiani ormai trapiantati ad Helsinki da qualche anno, ai quali si è giunto anche Alexei Sernyaski. Sia loro ma anche il precedente Jarl si sono ispirati alla scuola della Cosmic Music, i Corrieri Cosmici di teutonica memoria, musica siderale per viaggi siderali ma anche interiori. E d'altronde The Body of Horror trattava l'arte cinematografica di David Cronenberg, una compilation del 2022 uscita attraverso la Eight Tower di Raffaele Pezzella. Allora, parliamo proprio di questa compilation Artists for DJ Electrodo, ossia gli artisti che si sono dedicati a fare questa compilation dedicata più che altro al sottoscritto, definendolo una leggenda radiofonica. Ed oggettivamente ne è uscita fuori un'opera colossale, devo dire, con 41 tracce di estremo valore che pian piano ci sentiremo in tutta la loro interezza. E stasera altri tre artisti, Black Lava. Il titolo è scritto in cirillico, al momento non so cosa possa significare, andrò un po' a verificare. Poi abbiamo Filippo Panichi che per rendere la cosa ancora più complessa ha usato un vero e proprio rebus assolutamente intraducibile. Più semplice invece Colney Hatch di Cordis Cinti Serpente dell'amico Giovanni Lisi in compagnia di Sara Bellini. Non si vede?